Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, 13:34 minuti ogni giorno a quest'ora su Radio 24. Andiamo a cercare fatti e personaggi della cronaca per raccontare la nostra Italia in controluce. Oggi siamo in Campania, ufficialmente l'emergenza rifiuti non è più un'emergenza, è terminata il 31 dicembre con la fine della gestione straordinaria del sottosegretario Bertolaso, ma alcuni problemi restano sul tappeto. Ci sono i comuni commissariati, tanto per iniziare, perché non riescono a garantire la pulizia o lo smaltimento dei rifiuti per strada. Ci sono, come sempre, le infiltrazioni della camorra, purtroppo, e ci sono anche i dipendenti delle aziende locali rimasti senza stipendio. Sono loro quelli che materialmente raccolgono la spazzatura. Per alcuni giorni a Napoli e dintorni sembrava di essere tornati indietro nel tempo. Paolo Picone. Ricordate l'emergenza rifiuti in Campania? I cumuli di spazzatura che avevano seppellito per mesi le strade di Napoli? Ebbene, qualche giorno fa sembrava di essere tornati indietro con il tempo, di ben 2 anni, con montagne di rifiuti ovunque, a Napoli e nei comuni della provincia, ma anche nel Casertano. Questa volta però l'emergenza non è stata causata dalla penuria di discariche, ma da ben altro, dallo stato di agitazione di 1300 dipendenti del Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta che non percepiscono lo stipendio da mesi. E senza di loro i rifiuti non si raccolgono. Così in pochi giorni di protesta l'emergenza è tornata di attualità. 400 tonnellate di immondizia sparse tra il cuore di Napoli e le periferie, altre 300 nella Casertano ed ancora 700 tonnellate ad Aversa. Naturalmente non sono mancate le proteste dei cittadini che si sono ritrovati in mezzo alla spazzatura. C'è di tutto, materassi, sedie, tutto ciò che non si può, che non si può immaginare sta qua davanti. Un'altra emergenza, in più puzza, le vecchiette non possono passare, le impalcature, la spazzatura, è invivibile, siamo portati a capo un'altra volta. La paura dell'anno scorso, lo stesso problema che è successo con la spazzatura, che siamo stati invasi come l'anno scorso. Il mio disagio è quello di essere un invalido civile, però purtroppo in questa città le condizioni sono disastrose. Per l'ennesima volta, dopo le denunce fatte al comune, comunque io ho una macchina distrutta. Per colpa della SIA. Stipendi che non arrivano perché i soldi non ci sono per un braccio di ferro che coinvolge 2 livelli istituzionali. Da un lato i comuni che appaiono morosi nei confronti della lunga gestione commissariale per 140 milioni di euro. Dall'altro le province di Napoli e Caserta che per effetto del decreto legge voluto dal sottosegretario Guido Bertolaso devono assorbire questi dipendenti e gestire la raccolta non accettano di buon grado la disposizione. Ma una soluzione momentanea è stata per ora trovata. Le province di Caserta e Napoli infatti hanno stanziato 4 milioni e 300 mila euro per togliere i rifiuti dalle strade. Il presidente Luigi Cesaro e il commissario prefettizio della provincia di Caserta, Biagio Giliberti, garantiranno la totale copertura finanziaria delle somme da erogare per gli stipendi del Consorzio Unico di Napoli e Caserta, anticipando dunque il denaro. Dovrebbe così rientrare in poco tempo il pericolo di una nuova emergenza rifiuti, almeno per questo mese, perché la misura presa non copre i pagamenti futuri e quindi già dal 27 marzo in poi non si sa cosa accadrà. Oltre ai 2 enti provinciali è scesa in campo anche la Regione Campania, che si è detta disponibile ad intervenire, ma solo dopo aver ricevuto un input dal governo centrale. Italia in controluce. E ora rilassiamoci e mettiamoci invece all'ascolto di uno che le storie le sa raccontare bene. Questa volta parla di come nascono i suoi spettacoli. Ascanio Celestini, uno dei migliori narratori italiani, uno che racconta storie di memoria. La strage alle fosse ardeatine, il ghetto ebraico di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi parla di fabbriche, della vita nei call center, di precari. Lo fa con uno stile straordinario, da grande raccontatore. Ma in quali luoghi vengono ambientate le storie che Celestini narra sui palchi italiani? Quel giorno lì era il 25 marzo 1944, quando la gente indietro al cinema Iris, odierno cinema Gioiello, in fondo a via Nomentana a Porta Pia, qua a Roma, andarono lì da mio nonno e gli dissero: Sor Giulio, che per favore ce la fate la cortesia di leggere quello che è scritto su questo giornale, che pare che sia un comunicato dei tedeschi che dicono che è una cosa importante. Mio nonno allora prese il giornale e disse: sul giornale c'è scritto che